Yo no. Aggio! Aggio, tu faccio ne capito, mi dici? Mi sembra apparenza sempre cari, è mistero per mistero, to scranam stu rosario. Il primo mistero è il mistero della crisi. Tutti insieme salta a fare sacrifici. Sacrifico lavoro, voi sacrificate a me. E misteriosamente la questione più non c'è. Secondo mistero del lavoro nero. Come la stai facendo con il Milan ancora esiste? La polizia è impegnata, c'ha troppo lavoro. Indaga mio sandwich, cade nuovo terrorista. Noi siamo la paranza di San Precario, la nostra resistenza combattiamo con rosari in processione a Reto Santa, che manca esista. Siamo noi l'Italia che resiste. Il terzo mistero è dei co-co-co, che si possono evolvere in co-co-pro come Pokémon. Il mistero è che non so, arriva a fine mese, come farò. Il quarto mistero, sicurezza sul lavoro. Vittime siamo noi, colpevoli sono loro. Sarà per questo che non appena la chiediamo, per la nostra sicurezza ci levano lavoro. Noi siamo la paranza di San Precario, la nostra resistenza combattiamo con rosari in processione a Reto Santa, che manca esista. Siamo